sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. I dati Istat confermano il forte calo dell'occupazione nelle grandi imprese, a febbraio un meno 3,2%, la diminuzione maggiore dal 2001. Inversione di tendenza invece per l'inflazione, che torna a salire dopo 7 mesi, ad aprile è all'1,3%. Nuovo attacco dei pirati contro un cargo italiano al largo della Somalia. Extra large, il racconto dell'armatore. Obama parla per i 100 giorni, stiamo iniziando a ricostruire gli Stati Uniti, ma le prove non sono finite. E sarà lo stesso presidente americano ad annunciare oggi pomeriggio l'accordo fatto fra Chrysler e Fiat. Esce dal disegno di legge sicurezza la norma che obbliga gli imprenditori titolari di appalti pubblici a denunciare il racket. Ne parliamo tra poco con il presidente di Confindustria Sicilia, Ivan Lobello. Influenza messicana, l'Organizzazione Mondiale della Sanità certifica 148 casi, riunione dei ministri della salute europei a Lussemburgo. Attesa per stasera la sentenza per Alberto Stasi, accusato di aver ucciso la fidanzata Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. L'accusa ha chiesto 30 anni. Una buona giornata da Alessandra Tedesco e da Simone Spezia. Apriamo parlando dunque di dati economici, quelli che sono stati comunicati questa mattina dall'Istat, che riguardano l'occupazione, che va decisamente male, e l'inflazione, che riprende a salire dopo 7 mesi. Ma partiamo proprio dal mercato del lavoro. Buongiorno a Giampaolo Oneto, direttore centrale statistiche economiche congiunturali dell'Istat. Buongiorno, salve. Allora, dunque, a febbraio l'occupazione nelle grandi imprese, come abbiamo già detto nei nostri titoli, è diminuita del 3,2% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Se si considerano poi i lavoratori finiti in cassa integrazione, il calo si limita, diciamo, all'1%. È comunque il calo più forte dal gennaio del 2001. Oneto, ci aiuti ad interpretare questi dati, come li possiamo e li dobbiamo interpretare? Sì, allora è fondamentale la differenza fra dati al netto e al lordo della cassa integrazione. Il calo del 3,2 tiene conto della cassa integrazione, cioè togliamo in questo lato dagli occupati quelli che sono cassa integrati, o perlomeno quelli che equivalgono a dei cassa integrali in termini di orario. E lo si vede soprattutto nell'industria. Nell'industria, se prendiamo i dati al netto della cassa integrazione, quindi escludendo gli occupati al momento in cassa integrazione, abbiamo un calo addirittura dell'8%, mentre al lordo il calo è del 2%, quindi in qualche maniera i dipendenti stabili, quelli che non sono, che non sono in cassa integrazione ma che comunque restano al libro paga, segnano una diminuzione relativamente contenuta, questa sia nell'industria sia nel totale di industria e servizi. Invece è fortissimo appunto l'effetto dei cassa integrati. E questo per quanto riguarda dei dati che però, Oneto, si riferiscono a febbraio. Sì, certo. Iniziate a vedere qualche segnale positivo su marzo, per quanto potete capire dalle prime indicazioni? In generale i dati su marzo non abbiamo ancora tirati fuori. Per l'input di lavoro delle grandi imprese in particolare, naturalmente gli effetti della crisi, insomma, è possibile che dureranno a lungo, ma insomma questo è un diventa, insomma, delle proiezioni che vedremo più avanti. Un dato importante che si vede da questa rilevazione di febbraio è il forte calo delle ore lavorate, anche il calo pro capite, un forte calo delle ore lavorate che riguarda anche i servizi. Dell'industria sapevamo che c'è un calo dell'attività, ma sui servizi abbiamo meno dati. Il calo delle ore lavorate dei servizi significa naturalmente meno input di lavoro e anche quindi meno output, meno produzione. Grazie a Giampaolo Oneto, direttore centrale statistiche economiche congiunturali dell'Istat. Buona giornata. A voi. Ma come dicevamo, l'Istat ha diffuso questa mattina anche la stima preliminare di aprile per l'inflazione. È salita all'1,3% dall'1,2% di marzo. Parliamo naturalmente del dato su base anno. È il primo rialzo dopo 7 mesi di tendenza al rallentamento. E a proposito di dati economici, di economia, ha parlato Barack Obama nella notte, ora italiana, quando ha pronunciato il suo discorso per i primi 100 giorni di governo. Il presidente americano ha assicurato di aver iniziato a mantenere la grande promessa di ricostruire degli Stati Uniti, ma ha precisato le prove da superare non sono finite. Più che 100 giorni in salita, come ha scritto qualcuno, è una vera arrampicata per Barack Obama. Prima la recessione economica, le banche in affanno, i titoli spazzatura, ora l'influenza messicana. Non si può certo dire che questi primi 100 giorni siano stati una passeggiata per il presidente. Stiamo monitorando la situazione, che è molto seria, ha detto Obama, definendo l'epidemia di influenza preoccupante, ma respingendo l'idea di chiudere i confini col Messico. Poi si è detto fiducioso su una conclusione positiva della vicenda Fiat Chrysler e sulla crisi economica ha ammesso di essere colpito dalla pazienza degli americani, che hanno capito che non possiamo uscire da questa crisi in breve tempo. Su questo fronte anche ieri le cattive notizie non sono mancate. Il PIL americano del primo trimestre è sceso del 6,1%, ma davvero la pazienza degli americani deve essere infinita se, nonostante i dati, ieri la borsa non solo non è crollata, ma è addirittura salita di 2 punti percentuali. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. Il commento del corrispondente da New York del Sole 24 Ore, Mario Platero. Rilassato, anche spiritoso, Barack Obama al suo 100° giorno, ha affrontato una serie di questioni ovviamente a tutto campo, con un elemento di preoccupazione di fondo, e cioè la stabilità del governo pakistano. Sarebbe un guaio se l'avanzata dei talibani, che si avvicinano ormai a Islamabad, ovviamente non hanno ancora la capitale pakistana addirittura d'arrivo, ma hanno conquistato posizioni importanti nelle montagne, dovesse essere presa davvero di mira. Barack Obama ha cercato di rassicurare tutti che questo non succederà, soprattutto le armi atomiche pakistane non saranno a rischio. Detto questo, il presidente ha poi parlato un po' di tutto sulla questione economica, ha detto che assolutamente non è sua volontà, non ha nessuna voglia di gestire aziende o banche, o già da gestire 2 guerre, e questo mi basta, ha detto sull'economia. Ha detto che non si può costruire una ripresa su delle fondamenta di sabbia, e quindi finora si è cercato di lavorare proprio per costruire una ripresa solida. Ha attaccato Bush e Cheney dicendo che le torture non funzionavano, hanno dato una pessima immagine all'America. Abbiamo respinto, ha detto il presidente, le false scelte fra i nostri ideali e la nostra sicurezza. La Jolly Smeraldo, una nave container italiana in rotta verso l'Arabia Saudita, è stata attaccata ieri dai pirati nel Golfo di Aden, ma è stata nuovamente attaccata sempre dai pirati questa mattina. E allora, Simone, tu hai sentito Stefano Messina, che è l'amministratore delegato della società di armatori, la Ignazio Messina. Sentiamo cosa ti ha detto. Alle 5:50 c'è stato di nuovo un attacco da parte dei pirati. La nave ovviamente era molto allerta, perché dopo l'episodio di ieri, già normalmente in questo periodo in zona abbiamo gli equipaggi molto attenti, grazie a Dio molto preparati e formati. L'attacco è durato più di ieri, quasi un'ora, molto movimentato. Da poppa sono passati sul lato sinistro della murata della nave, hanno ripetutamente attaccato l'abordaggio, hanno con le mani, il comandante parlando stamattina ci spiegava che più volte hanno fatto segnali come con le braccia alzate di fermarsi, dicevano fermate alla nave, intimando lo stop, cosa che ovviamente il comandante brillantemente ha evitato, beccheggiando e rollando, quindi creando un'onda che li tenesse lontani, nella speranza che comunque non si avvicinessero a una distanza sufficiente per poter lanciare i loro rampini, le loro scale. Hanno sparato, e la cosa più importante, non ci sono feriti. È chiaro che adesso stiamo prendendo in considerazione ulteriori misure, perché non si può continuare a vivere così, è uno stress per gli equipaggi, per noi, per le famiglie. Cioè, un intervento maggiore da parte delle autorità governative nazionali, internazionali. E state pensando di prendere delle società che si occupano di sicurezza a bordo? Guardi, sì, lo stiamo valutando, anche se la normativa lo sconsiglia, però stiamo approfondendo la fattibilità di questo, sì. C'è stato un ulteriore attacco, però, da quel che ho capito? No, è un'informazione che è stata è un'informazione imprecisa, diciamo, all'interno dello stesso attacco, diciamo che non è che uno fa un attacco, prende, se ne va, essendo durato un'ora, ha capito, c'è stata un'interruzione, è ripreso, eccetera, ma l'attacco è durato un'ora nella sua totalità. Tra le altre cose, dalle 8 siamo in contatto tramite l'autorità di Roma ci hanno spiegato che è partita una fregata tedesca che si trova a circa 200 miglia dalla nostra nave a nord, sta scendendo in direzione a sud a bordo dei mezzi aerei, quindi riteniamo che nel giro di 5-6 ore al massimo si raggiungeranno affinché la possa scortare. Ci conferma che hanno usato anche i bazooka? Sì. E questo era Stefano Messina, amministratore delegato della società di armatori Ignazio Messina, proprietaria della nave Jolly Smeraldo, appunto attaccata sia ieri che oggi dai pirati. È il momento dell'appuntamento con i consigli del nostro gastronauta per il fine settimana. L'abbiamo anticipati oggi perché domani, 1° maggio, il GR Extra Large non andrà in onda. Sentiamo Davide Paolini. Per una bellissima serata a base di pesce, magari chi si trova in Maremma, il suggerimento che vi offro questa settimana è a Cecina, a pochi chilometri da Livorno e altrettanti da Pisa. C'è un ristorante storico che si chiama Scacciapensieri in Via Verdi. Ebbene, qui si mangia una cucina molto tradizionale a base di pesce, ma sicuramente di pesce di grandissima qualità. Si possono mangiare degli spaghetti alle arselle o alle vongole veraci davvero interessanti, magari anche con i tartufi. Oppure ancora si possono mangiare paste con la salsa tirata a dovere. E appunto, come secondi piatti, sono i classici della cucina marinara, a seconda della giornata, a seconda di che cosa è stato trovato al mercato. Vi indico ancora l'indirizzo, Via Verdi 22 a Cecina, il ristorante è lo Scacciapensieri. Le 13:15, nella prima parte del GR Extra Large abbiamo parlato dei dati Istat, si segnala un forte calo delle occupazioni in febbraio per le grandi imprese, mentre l'inflazione torna a salire, un più 1,3%. Abbiamo parlato dei primi 100 giorni di Barack Obama e del discorso che ha fatto lo stesso Obama per i suoi primi 100 giorni, abbiamo ascoltato la voce di un armatore, dell'armatore della Jolly Smeraldo, che è stata attaccata sia ieri che oggi dai pirati nel Golfo di Aden. Adesso parleremo di Fiat Chrysler, ma prima un aggiornamento di cronaca. Che arriva da Piacenza, riguarda il maltempo, l'ondata di piena del Po ha causato il cedimento parziale di un'arcata, ma forse due, del ponte che collega Piacenza alla sponda lombarda. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sommozzatori, sembra che ci siano coinvolte un paio d'auto, ma al momento pare fortunatamente senza vittime. Naturalmente vi aggiorneremo nel corso della GR Extra Large. E ora appunto passiamo all'accordo Fiat Chrysler. Si saprà nelle prossime ore se l'amministrazione Obama dovrà di fatto prendere in mano la gestione della Chrysler o se tutti i creditori della casa automobilistica sono disposti ad un salvataggio. Il termine per la decisione scade oggi ed è attesa per le 18 la conferenza stampa di Obama. Conferenza stampa nella quale il presidente americano dovrebbe anche annunciare l'accordo fatto fra Fiat e Chrysler, perché in qualunque caso sia bancarotta protetta che salvataggio da parte delle banche, questo accordo rimane comunque in piedi e, notizia appunto di questa mattina, sarebbe appunto stato firmato. Andrea Malanna. Sì, buongiorno a tutti. La Fiat ha confermato che la firma ci sia, però diciamo che a questo punto appunto abbiamo ancora solo qualche ora di attesa. Come avete detto, alle 18 il presidente Obama annuncerà l'esito della vicenda e appunto l'esito più probabile a quest'ora è che si vada verso un Chapter 11, quindi un'amministrazione controllata, che tra l'altro comporterebbe per Fiat anche dei vantaggi, e cioè in particolare il fatto che Chrysler sarà in grado in questo caso di liberarsi di una serie di contratti, per esempio con i concessionari, snellendo molto più facilmente la rete, oltre che lasciare in un'eventuale bad company rischi come quelli legati all'amianto e ad altre potenziali responsabilità della vecchia Chrysler. Ovviamente per Fiat c'è dall'altra parte un rischio, e cioè che comunque una procedura di amministrazione controllata passa per un tribunale, durerà comunque qualche settimana come minimo e quindi potrebbe avere anche un impatto sulla gestione di Chrysler. Vedremo naturalmente nelle prossime settimane come andrà di fatto a finire, ma soprattutto sentiremo questo pomeriggio quali sono tutti i dettagli dell'accordo. Andrea, ci si sta dirigendo verso questa scelta perché ci sono dei creditori di Chrysler che hanno di fatto ostacolato un accordo senza il passaggio per l'amministrazione controllata. Sì, Diciamo che dovrebbe esserci a ieri sera ancora una decina di creditori, in particolare non le grandi banche che hanno avuto molti soldi dal tesoro e quindi comprensibilmente hanno ceduto, ma per esempio alcuni hedge fund che si dice siano esposti anche sul debito per esempio di Ford o General Motors, e che quindi potrebbero compensare eventuali perdite su Chrysler con guadagni sul debito delle altre case automobilistiche se Chrysler effettivamente fallisse, quindi che potrebbero avere effettivamente dei vantaggi concreti da un fallimento di Chrysler. Sono molto pochi, ma sono appunto sono stati in grado e sembrano in grado di bloccare l'accordo finale. Ovviamente nel caso in cui si andasse di fronte a un tribunale fallimentare, di fronte al giudice, se c'è l'accordo della larga maggioranza dei creditori, anche le loro obiezioni a quel punto potrebbero essere superate. Grazie ad Andrea Malana, staremo dunque a vedere che cosa dirà il presidente Barack Obama oggi pomeriggio intorno alle 18 ora italiana. Ora invece parliamo di politica italiana. Sì. Sì, perché da ieri legge il federalismo fiscale, delle nuove norme vi abbiamo parlato ieri. Fatto sta che la riforma sarà effettivamente a regime nel 2016, tra i 6 e i 7 anni di tempo dunque, nei quali dovranno essere varati decreti attuativi che daranno poi i principali contenuti a questa legge. Ma cerchiamo di dare già un primo giudizio. Lo chiediamo a Fabio Pammolli, direttore del CERM Competitività, Regolazione, Mercati. Allora Pammolli, un giudizio su questo federalismo fiscale. Ma innanzitutto è una misura che cerca di porre rimedio a quello che è stato un unicum a livello mondiale, un paese che pur essendo unito da un punto di vista istituzionale, linguistico, religioso e culturale, ha mantenuto persistentemente un duplice divario al proprio interno, un divario di crescita con una spaccatura tra nord e sud che è rimasta pressoché inalterata nel corso del tempo, e un divario di efficienza della macchina della pubblica amministrazione. Questa situazione ha determinato un crescente livello di insoddisfazione nelle regioni che più contribuivano al finanziamento complessivo della macchina pubblica, e ha potuto trovare una risoluzione politica unicamente con questa decisione. Pertanto il giudizio non può che essere positivo, anche perché il testo nella formulazione finale approvata dal Senato è un testo nettamente migliorato rispetto a versioni precedenti. Ad alcuni argomenti ha già accennato lei, ossia l'efficienza della macchina pubblica, oppure come cambierà il paese dal punto di vista economico, proprio sul fronte di questa divisione storica tra nord e sud. Da questo punto di vista, dunque, efficienza della macchina pubblica e punto di vista economico, cosa possiamo attenderci? Possiamo attenderci intanto una maggiore responsabilizzazione degli enti territoriali, che vengono finalmente incardinati in un sistema che non è solo di responsabilità amministrative in un sistema decentrato ma centralizzato dal punto di vista della responsabilità e del gettito, a un sistema che invece diventa un sistema appunto federalista, all'interno del quale i territori dovranno contribuire in misura crescente anche con gettito proprio e quindi con imposte proprie al mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario. Dal punto di vista pertanto dell'enfasi anche retorica ma pratica sul controllo della spesa e sul controllo dell'efficienza, è sicuramente un passo in avanti. Dal punto di vista della crescita economica rimane l'interrogativo, perché ereditiamo dal modello precedente centralista un divario che è molto forte in termini di prodotto interno lordo pro capite tra nord e sud, e in termini di potenzialità di crescita. Se noi guardiamo i tassi di occupazione e i livelli di produttività, oltre che una demografia che sta iniziando a risentire di flussi migratori interni al paese analoghi a quelli degli anni 60 e 70, ebbene l'impresa per il nuovo assetto federalista non è un'impresa facile. Certamente di vie alternative difficilmente se ne potevano scorgere. E invece sul fronte più puramente fiscale, Pammolli, secondo lei che cosa dobbiamo aspettarci da questo federalismo? Ma innanzitutto mi pare che di per sé il nuovo assetto non introduca elementi che lasciano pensare a un aumento del carico fiscale. Questo mi sembra un primo elemento. Certo è che in assenza di una maggiore enfasi anche su tributi propri degli enti territoriali, di per sé la possibilità di avere ricorso a compartecipazioni al gettito non sarà sufficiente a realizzare questa autonomia. La transizione che si ipotizza è una transizione lunga. Io mi auguro che nel percorso di transizione non si ripropongano alcuni dei vizi che hanno segnato la stagione del federalismo amministrativo che si è realizzata a partire dagli anni, dall'inizio del 2000. Cioè, intendo dire che non si ripropongano all'interno del sistema dei meccanismi inerziali e di fatto compiuto che portino poi a un reingresso del finanziamento basato sulla spesa storica e quindi anche di finanziamenti dell'inefficienza di fronte a vincoli politici che dovessero emergere dagli enti territoriali. Da questo punto di vista è importante che i decreti attuativi mettano mano anche a tutta la macchina e a tutto l'impianto contabile di controllo e di programmazione che è necessario per evitare questo rischio. Grazie a Fabio Pamolli, direttore del CERM Competitività, Regolazione, Mercati. C'è un aggiornamento per quanto riguarda il ponte parzialmente crollato, ponte sì. sul Po. Sì, sì, in sostanza il cedimento di un pilone, arriva qualche aggiornamento e qualche precisazione sul Po, appunto tra Lodi e Piacenza, ha provocato la caduta di parte della struttura nel fiume. Secondo le prime informazioni dei Vigili del Fuoco, diverse auto sarebbero finite in acqua. Nelle informazioni che vi abbiamo dato precedentemente, è bene precisare perché in questi momenti arrivano informazioni frammentarie e piuttosto confuse, era stato detto che non ci sarebbero né vittime né dispersi. Insomma, naturalmente continueremo ad aggiornarvi. L'incidente è avvenuto a San Rocco al Porto sulla statale 9. È ripreso questa mattina a Vigevano il processo con rito abbreviato in cui Alberto Stasi, lo ricordiamo, è accusato dell'omicidio della fidanzata Chiara Poggi. Entro stasera dovrebbe essere emessa la sentenza. In diretta, Laura Vecchio. Sì, buongiorno, la parola alla difesa. Siamo ormai, come dicevate voi, alle battute finali del processo a carico di Alberto Stasi, imputato per l'omicidio di Chiara Poggi, processo che è ripreso intorno alle 11 quando hanno preso la parola per le controrepliche il professor Angelo Giarda e l'avvocato Giuseppe Colli del collegio difensivo di Stasi. Stanno cercando di smontare la tesi dell'accusa che insiste nel ritenere il fidanzato di Chiara unico responsabile del delitto commesso, tra l'altro con crude ed efferatezza. Si parla ancora quindi della bicicletta di Alberto con le tracce di sangue di Chiara e dell'erogatore del sapone appoggiato sul lavabo del bagno della villetta dove ci sarebbero impronte di una terza persona di sesso maschile. A breve, a meno che Stasi non decida di rendere dichiarazioni spontanee, il giudice si ritirerà in camera di consiglio, quindi si attende la sentenza in giornata, ma il giudice potrebbe anche decidere di ordinare nuove perizie. È tutto per il momento. E grazie Lara Vecchio. Passiamo a parlare di arte, Alessandra. Precisamente di Claude Monet. 20 opere dedicate al tema delle ninfee sono esposte a Palazzo Reale a Milano in una mostra aperta oggi, da oggi al pubblico e in programma fino al 27 settembre. Provengono dal Museo Marmottan di Parigi le ninfee di Claude Monet, che per l'occasione ha realizzato il più grande prestito mai concesso prima nella sua storia, permettendo così l'allestimento di questa mostra milanese intitolata Monet, il tempo delle ninfee. Nelle sale di Palazzo Reale sono esposte le grandi tele che l'artista, uno dei padri dell'impressionismo, ha dedicato a queste piante acquatiche che hanno ispirato oltre 200 dei suoi quadri dipinti nel giardino giapponese di Giverny, la casa di campagna di Monet. La curatrice della mostra, Claudia Beltramo Ceppi. Ormai le serie dei pagliai, le serie delle facciate della cattedrale di Rouen non gli bastano, bisogna di qualcosa che si muova, che fluttui per poter andare oltre, e questo è quello che lui si ricrea nel suo giardino giapponese di Giverny. Le ninfe sono un elemento famosissimo del lavoro di Monet, ma la possibilità di percepirne il vero significato è o di andare a visitare l'Orangerie, oppure viene a questa mostra in cui queste grandi tele, in cui lo spettatore quasi cade dentro, danno un'emozione veramente profondissima. Ad affiancare i dipinti di Monet una selezione di una cinquantina di stampe di autori giapponesi dell'Ottocento prestate dal Museo Guimet di Parigi, uno dei più grandi musei d'arte orientale fuori dall'Asia, e una singolare collezione privata italiana di fotografie colorate a mano di giardini giapponesi sempre dell'Ottocento. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. Crolla un ponte sul Po nella via Emilia, vicino a Piacenza. Ci sarebbero 3 feriti, uno dei quali grave. Forte calo dell'occupazione nelle grandi imprese. A febbraio meno 3,2%, la diminuzione più grande dal 2001. Inversione di tendenza per l'inflazione, che torna a salire dopo 7 mesi. Ad aprile è all'1,3%. Due attacchi, uno ieri sera e uno questa mattina. Il cargo italiano Jolly Smeraldo, assaltato dai pirati al largo della Somalia. Hanno usato anche un bazooka, ha raccontato ad XL l'armatore. Verso l'accordo fra Fiat e Chrysler, oggi pomeriggio l'annuncio di Obama. Per l'azienda americana probabile l'amministrazione controllata. E il presidente degli Stati Uniti parla per i 100 giorni. Stiamo iniziando a ricostruire il paese, ma le prove non sono finite. Salta dal disegno di legge sicurezza la norma che obbliga gli imprenditori a denunciare il racket. Fra poco l'intervista con il presidente di Confindustria Sicilia, Lobello. Influenza messicana, l'Organizzazione Mondiale della Sanità certifica 148 casi. Riunione dei ministri della salute europei a Lussemburgo. È attesa per stasera la sentenza per Alberto Stasi, accusato di aver ucciso la fidanzata Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. L'accusa ha chiesto 30 anni. Prima di tutto adesso gli aggiornamenti su quel che sta succedendo sul Po, dove lo ricordiamo appunto una parte di un ponte è crollato. Cristina Balotelli della redazione, che cosa ci puoi dire? Sì, buon pomeriggio. Il maltempo purtroppo ha provocato il cedimento di un pilone di un ponte sul Po, come avete detto, un ponte della statale numero 9 via Emilia, che collega Piacenza alla Lombardia. Sul ponte che ha ceduto erano in corso dei lavori di ristrutturazione e parte della struttura è caduta nel fiume. 3 auto sono precipitate nel Po, ci sono almeno 3 feriti, di cui uno apparentemente grave, nelle 3 auto che sono cadute. Le notizie stanno arrivando mano a mano che procedono i soccorsi. Il cedimento, spiegano i vigili del fuoco che stanno intervenendo sul posto, ha interessato il tratto che sovrasta la Golena, non il letto del fiume. Nei paraggi è atterrato anche un elicottero del 118 e sembra che i vigili del fuoco abbiano calato un'autoscala per raggiungere il ferito più grave, che è aggrappato ad uno sportello di una delle 3 auto precipitate. Quando avremo ulteriori aggiornamenti ve lo faremo sapere. Grazie Cristina Balotelli, appunto come dicevi ci ricollegheremo con te in caso di ulteriori aggiornamenti. E ora passiamo e torniamo alla politica, perché è iniziata oggi alla Camera la discussione generale sul disegno di legge sicurezza, che contiene tra l'altro le norme sulle ronde, quelle che permettono il fermo degli immigrati clandestini per 6 mesi nei centri di identificazione ed espulsione. Il testo sarà messo al voto la prossima settimana. Ma c'è qualcosa che da questo disegno di legge è scomparso, ossia l'obbligo per l'imprenditore titolare di appalti pubblici di denunciare un'estorsione. Pena la perdita della commessa e l'interdizione dalle gare per 3 anni. Un emendamento del deputato del PDL Manlio Contento, con il benestare del Ministero della Giustizia, questa notte in commissione ha fatto saltare la norma. E per questa norma si era speso anche il presidente degli industriali siciliani Ivan Lobello. Buongiorno Lobello. Buongiorno a voi. Allora, cosa ne pensa di questa cancellazione? Ma un errore, un grande errore politico, che lancia un segnale in controtendenza rispetto a una stagione importante di contrasto alla mafia. Una norma fortemente voluta dal ministro Maroni e dal sottosegretario Mantovano, che ci vedeva in totale sintonia, che viene indebolita oggi. L'imprenditore oggi non può più essere considerato una mera vittima, almeno nella mia regione, dove l'azione dello Stato è stata poderosa, forte, ha incrinato la forza della mafia, ha oggi i principali boss e tanti cagari sono in galera. E una norma come questa poteva servire e può servire ancora oggi, insomma, a rafforzare le denunce, che sono aumentate moltissime in tutte le città siciliane. Poteva rappresentare anche una garanzia per l'impresa e non solo un onere per l'impresa. Quindi quello che noi speriamo è che, se tecnicamente possibile, insomma, in aula si possa correggere la decisione della commissione competente. Ripeto, insomma, era una norma fortemente peraltro voluta dal governo. Noi abbiamo apprezzato moltissimo l'impegno di Maroni e Mantovano su questo tema, una sensibilità nuova, forte sul contrasto alla mafia, e le devo dire, insomma, siamo abbastanza delusi e amareggiati per l'esito che ha avuto questa vicenda in commissione ieri. Presidente, l'associazione che lei guida è diventata diventata nell'ultimo anno e mezzo un simbolo della lotta al racket dopo la decisione di espellere gli imprenditori che pagano il pizzo, che le inchieste giudiziarie permettono di scoprire che hanno pagato il pizzo. Come stanno andando le cose su questo fronte? Ma stanno andando molto bene, cioè nel senso che noi cerchiamo di convincere gli imprenditori a denunciare e quindi per noi un'espulsione rappresenta più una sconfitta che un successo, e questo risultato lo si sta ottenendo grazie all'azione non solo nostra, ma cito l'associazione antiracket di Palermo, Libero Futuro, insomma, che sta svolgendo in una città considerata regione capitale della mafia per tanti anni un'azione importante. Molti imprenditori stanno denunciando, hanno denunciato, sono ancora pochi rispetto ai tantissimi imprenditori che continuano a pagare, però si respira un clima nuovo, una stagione nuova che va supportata anche con misure legislative. Quindi io reitero l'invito a riconsiderare questa decisione e dico agli imprenditori, insomma, che sono preoccupati, hanno paura di questa norma, che oggi bisogna in qualche modo delle regioni del Mezzogiorno testimoniare un impegno civile, non solo la tutela della propria azienda. Forse molti non si rendono conto dei danni sistemici che la mafia provoca all'economia, alla società e al tessuto civile del Mezzogiorno. L'obbligo di denuncia dovrebbe essere, ancor prima che un obbligo legislativo, un obbligo civile e morale da parte del mondo imprenditoriale, e in questo caso una norma può servire anche a radicare in maniera più forte questo obbligo civile e morale. Grazie a Ivan Lobello, presidente degli industriali di Confindustria Sicilia, per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie a voi. E ora innanzitutto un aggiornamento di cronaca che arriva dall'Olanda. Però sono 4 i morti provocati da un'auto che ad Apeldoorn, dopo aver superato le barriere della polizia, è piombata contro la folla che assisteva al passaggio del pullman della regina Beatrice d'Olanda. Secondo le prime stime i feriti sono più di una decina. Anche su questo aggiornamenti più avanti, naturalmente. Parliamo ora dell'influenza suina, oppure come inizia ad essere chiamata l'influenza messicana, la nuova influenza. I morti accertati in Messico, punto del focolaio, sono 8. Si tratta di quelli per i quali è stata verificata la presenza del virus in laboratorio. Le morti sospette sono scese da 159 a 84. Questo balletto di numeri, come ci ha spiegato ieri a XL un virologo, dipende dal fatto che non è sempre facile verificare la presenza del virus in laboratorio per le persone, appunto, che sono decedute. Complessivamente in tutto il mondo i casi di contagio accertato da analisi di laboratorio, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono 148, dei quali 13 in Europa. E proprio l'Europa riunisce oggi a Lussemburgo i ministri della salute dei 27. In diretta da Lussemburgo Enrico Brivio. Allora, questo incontro ci sarà nel primo pomeriggio? Sì, inizierà alle 2.30 l'incontro dei ministri della sanità qui a Lussemburgo. Varie le proposte sul tavolo, tra le quali vi è la proposta francese di bandire i viaggi in aereo in Messico, anche se questa proposta non ha raccolto molti consensi, in particolare il ministro ceco, noi sappiamo che la Repubblica Ceca ora ricopre la presidenza dell'Unione Europea, non è favorevole la ministra Filippiova. Un'altra possibilità, questa dovrebbe essere, secondo l'indiscrezione, una proposta che viene dall'Italia, sarebbe quella di istituire una banca comune europea per gli antivirali ed eventuali vaccini, in modo che si creasse una riserva comune, in modo che non ci siano quegli scompensi che attualmente ci sono tra paesi che sono ben forniti ed altri che sono più in difficoltà. Vedremo poi nel corso del pomeriggio come andranno le cose. Da Lussemburgo è tutto. Grazie Enrico Brivio per questi aggiornamenti. Lo stiamo ripetendo più volte in questi giorni e lo ripetiamo perché male non fa: la carne di maiale non è portatrice del virus dell'influenza. Il contagio è avvenuto da animale vivo a uomo ed è ormai quasi esclusivamente da uomo a uomo. Eppure sta iniziando un calo nelle vendite di carne suina, come racconta Giorgio Apostoli, responsabile del comparto zootecnico di Coldiretti. Fatto 100 la produzione e il consumo di carne suina nazionale, 65 è prodotta da allevamenti italiani, 35 è importata esclusivamente da stati dell'Unione Europea. Quello che entra fuori dall'Unione Europea in termini di carne, l'equivalente carne suina, è lo 0,023%. Voi temete che comunque, visto che questa vicenda è parecchio ingigantita forse anche dai media, no? Che ci sia per ignoranza sicuramente una ripercussione in negativo sulle vendite? Purtroppo c'è già, ci sono i macelli che vogliono rinegoziare, noi diciamo che insomma stanno facendo una furbata, perché insomma sono carne che è già venduta. Comunque, tanto per dire quanto la cosa si stia già facendo pesante. Il giorno dei libri, Alessandra, che cosa ci segnali? Oggi vi parlo il giovedì, non gnocchi ma libri. Oggi vi parlo di un giovane scrittore che al suo esordio era stato definito il nuovo Andrea De Carlo. Sto parlando di Mattia Signorini, classe 1980. Dopo Lontano da ogni cosa e ora in libreria con La Sinfonia del Tempo Breve, pubblicato da Salani. È un romanzo che parla della necessità dell'ascolto degli altri ed è quindi anche una critica della società contemporanea. E allora ecco come lo stesso autore ci descrive il protagonista di questo romanzo, Green Talbot. Green Talbot è prima un bambino, poi un ragazzo, poi un uomo e poi un vecchio che un giorno decide di andarsene all'inizio del Novecento da questo paesino in cui è nato, che si chiama Tranquility, dove tutto scorre più lentamente, anche il tempo, che sta nel sud dell'Inghilterra, e se ne va in giro per il mondo e si trova di volta in volta all'interno degli eventi che hanno fatto il Novecento. Quindi lo vedremo nell'America della Grande Depressione, lo sbarcherà in Normandia, eccetera eccetera, fino ad arrivare ai giorni nostri, alla caduta del muro di Berlino. In che modo vive gli eventi ai quali assiste? Ma lui non è mai protagonista della storia con la S maiuscola. In realtà si trova all'interno di questi grandi ingranaggi che hanno mosso il mondo, però ci si trova insieme ad altre persone. Quindi anche un po' il punto di vista della gente normale sugli eventi storici che poi hanno segnato il Novecento. Ma esatto, perché molto spesso sui libri di storia, anzi per non dire sempre, leggiamo quello che è successo come una serie di eventi asettici, no, che si sono susseguiti. Molte volte ci dimentichiamo che all'interno di un periodo o di pace o di guerra, insomma, ci sono stati milioni e miliardi di persone con i loro sogni che hanno portato avanti il mondo in maniera pratica. E quindi mi interessava cercare in qualche modo di raccontare uno spiraglio, una fessura di quelle che erano le vite che io ho immaginato di queste persone. Le 13:47 minuti, 53 secondi, andiamo a Roma, all'assemblea di Coldiretti, sta intervenendo il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. Italia contro la sfortuna. Bene, in Abruzzo il governo ha dimostrato di esserci, ha dimostrato di essere un governo che intende come suo primo dovere quello di essere vicino ai suoi cittadini quando avviene. E questo dunque il Presidente del Consiglio che sta parlando alla Coldiretti, in questo preciso momento stava parlando di terremoto. Vi daremo conto di quanto sta dicendo Berlusconi naturalmente nelle prossime edizioni della GR24. Ora invece andiamo in Sicilia. Sì, dove un simbolo di eccellenza nella sanità entra nel mirino dei magistrati. Gli appalti per gli approvvigionamenti della banca del cordone ombelicale di Sciacca nell'Agrigentino sarebbero stati pilotati, e quanto ritiene la Guardia di Finanza, che ha riscontrato danni erariali per oltre 15 milioni di euro e che ha indotto la Procura di Sciacca a chiedere il rinvio a giudizio dei responsabili per turbativa d'asta e truffa aggravata. La banca è considerata la più importante d'Europa ed è al secondo posto a livello mondiale per numero di cordoni ombelicali raccolti. La struttura di Sciacca è deputata per la Sicilia alla raccolta e conservazione di sangue cordonale da cui vengono estratte cellule staminali ad alta capacità rigenerativa. Le indagini svolte dalle Fiamme Gialle, che hanno riguardato la gestione della banca dal 99 al 2006, hanno accertato l'esistenza di rapporti privilegiati fra i responsabili della struttura e alcune società del settore medico farmaceutico basato sul do ut des, a fronte cioè della concessione di borse di studio e finanziamenti per partecipazione a convegni da parte delle società coinvolte, venivano pilotate a favore di queste ultime le aggiudicazioni delle forniture. Nelle indagini sono emerse anche numerose omissioni inerenti alla lavorazione del sangue contenuto nel cordone ombelicale donato dalle madri all'atto del parto. Ad esempio, molti esami obbligatori sulle sacche raccolte non venivano effettuati. Gian Piero Casagni, GR24, Il Sole 24 Ore, Palermo. A maggio, quindi a partire in sostanza da domani, tocca al Piemonte, a giugno al Lazio, ma la Sardegna ha già completato l'opera. Stiamo parlando del passaggio al digitale terrestre. Mentre le cronache televisive continuano a parlare di una guerra Rai, Mediaset, Sky, il passaggio al digitale terrestre va avanti a grandi passi. Quali? Marta Cagnola ne ha parlato con Andrea Ambrogetti, presidente di DigiTV, associazione che unisce Rai, Mediaset, Telecom Italia Media e tutte le reti che trasmettono sul digitale. Nel mese di ottobre tutta la regione Sardegna è stata la prima regione europea a trasformare il segnale da analogico al digitale e quindi il calendario che il Ministero dello Sviluppo Economico ha fissato ha già visto altre due tappe che sono la Val d'Aosta e la provincia di Trento che hanno già migrato Rai 2 e Rete 4 esclusivamente in digitale, due tappe importanti che avvengono il 20 maggio a Torino e Cuneo e il 16 giugno a Roma, Rai 2 e Rete 4, sempre le solite due reti che anticipano questo passaggio proprio per renderlo più accompagnato, per capirci, cesseranno le trasmissioni in analogico e saranno ricevibili solo in digitale. A ottobre e novembre tutte le reti in Piemonte e nel Lazio seguiranno la stessa strada. Rai, Mediaset, Telecom Italia Media sono visibili sul satellite, ma hanno fondato una società a parte, TV, per promuovere l'offerta digitale anche sul satellite. Cosa succederà? Faranno un decoder diverso, cioè si staccheranno da Sky? Le due aziende stanno riflettendo. Questo sarà una decisione che credo nei prossimi mesi sarà presa rispetto appunto delle diverse strategie aziendali. Ci sono ipotesi che appunto in qualche modo, pur assicurando l'offerta gratuita, potrebbero decidere di abbandonare la piattaforma proprietaria del satellite Sky. E vi ricordiamo che di questo si parlerà in 2024 in onda sabato pomeriggio alle 15:30. Un rapido riepilogo delle notizie della giornata. Crolla un ponte sul Po nella via Emilia vicino a Piacenza. Ci sarebbero 3 feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Non ci sono vittime, assicura il prefetto. Forte calo dell'occupazione nelle grandi imprese, a febbraio meno 3,2%, la diminuzione maggiore dal 2001, inversione di tendenza per l'inflazione, torna a salire dopo 7 mesi, ad aprile è all'1,3%. Due attacchi fra ieri sera e questa mattina. Il cargo italiano Jolly Smeraldo assaltato dai pirati al largo della Somalia. Hanno usato anche un bazooka, racconta ad XL l'armatore. Verso l'accordo tra Fiat e Chrysler, oggi pomeriggio l'annuncio di Obama, per l'azienda americana probabile l'amministrazione controllata. Il presidente degli Stati Uniti parla per i 100 giorni, stiamo iniziando a ricostruire il paese, ma le prove non sono finite. Salta dal DDL sicurezza la norma che obbliga gli imprenditori a denunciare il racket. Il presidente di Confindustria Sicilia Lobello ci dice: siamo delusi, speriamo si cambi idea. Influenza messicana, l'Organizzazione Mondiale della Sanità certifica 148 casi. Fra poco a Lussemburgo la riunione dei ministri della salute europei. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, condotta e curata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco, coordinata da Daniele Biacchesi con in regia Giacomo Spunta. Come sempre, se volete scriverci, extralarge@radio24.it. Il prossimo GR alle 15. GR Extra Large non ci sarà domani, ma tornerà lunedì in compagnia di Alessio Maurizi e Anna Migliorati. GR 24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.